Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, non solo cinema, sapete che c'è un festival di Cannes tutto dedicato alla pubblicità, è il Cannes Lions Festival, festival internazionale della creatività, la più prestigiosa manifestazione a livello mondiale dedicata alla comunicazione. Si è appena conclusa l'edizione 2014, un'edizione da record con oltre 37.000 candidature da 97 paesi. Nel primo dei nostri approfondimenti vi raccontiamo quali sono state le campagne più premiate, con un'attenzione particolare alle campagne sociali. Siti, app, ricette e tutorial, anche i supermercati sposano la filosofia antispreco, ne parliamo nello spazio retail. Ultimo appuntamento infine con il nostro Italian Factor, siamo alla riflessione finale. Dalla prossima settimana Essere e Avere vi terrà compagnia in versione meglio di. Si chiude dunque il nostro viaggio alla ricerca dei fattori di eccellenza del Made in Italy. La borsa della spesa. Well wrapped as well. Yeah. Nice decoration. Elastic bands. Elastic bands from Harvey Nichols, Dad. Sorry, I spent it on myself. A little something for them, a bigger something for you. Piace, li ho spesi per me. Questo il claim della campagna natalizia dei grandi magazzini del lusso inglesi Harvey Nichols. La trovate sulla nostra pagina Facebook, una campagna ironica e provocatoria che per una volta ha messo in scena l'egoismo al posto del buonismo natalizio. È il grande vincitore dell'edizione di quest'anno del Festival Internazionale della Creatività di Cannes, si è aggiudicata il massimo riconoscimento, il Grand Prix. Di questo e degli altri riconoscimenti abbiamo parlato con Nunzia Falco Simeone di Ninja Marketing. È stata molto ironica questa campagna, è anche molto reale, quante volte avremmo voluto appunto spendere i soldi e regali di Natale per noi piuttosto che per fare i regali. Altra campagna molto apprezzata, è diventata anche un video virale, Volvo Trucks con Van Damme. Certo, non poteva non essere premiato questo il video virale dell'anno, che è diventato un meme, è stato riproposto in tutte le salse e che ha vinto il Grand Prix nella categoria film. E sì, certo, non è stata una sorpresa questo Lion, ci sono delle campagne che diciamo possiamo intuire già da mesi prima che vinceranno un premio a Cannes, e qui Epic Split era appunto una di queste. Primo riconoscimento quest'anno per la Russia. Sì, la Russia che ha vinto uno dei premi più ambiti, che è l'Innovation Lion, che è appunto il premio dedicato alle campagne più innovative e più creative, e devo dire meritatissimo per Megafon. I selfie in 3D, cioè durante le Olimpiadi di Sochi, ha chiesto al pubblico di scattarsi un selfie, e il selfie delle persone che hanno inviato appunto la propria foto sono stati riproposti in 3D su un padiglione enorme, quindi il pubblico di Sochi ha visto il proprio viso proiettato in 3D su un edificio insomma molto grande, quindi molto, molto innovativo. È un modo anche per riproporre questa moda del selfie in maniera diversa, che insomma l'abbiamo visto un po' in tutte le salse. Ad esempio per Branded Content è stato premiato il selfie da Oscar, quindi tutta la campagna di Samsung legata agli Oscar di quest'anno. C'è un filo comune tra le campagne che hanno primeggiato, o comunque qual è stata la discussione, il dibattito un po' che ha fatto da sottofondo alla premiazione? Secondo te? Beh, secondo me le campagne premiate sono state anche quelle più condivise, no? Che sono diventate più virali, pensiamo a The Epic Split o anche a Look Up di British Airways, i billboard interattivi a Piccadilly Circus, i cui video sono diventati appunto virali. Non oso dire che il pubblico, diciamo, la fa da padrone, però le campagne premiate sono state anche quelle poi effettivamente apprezzate dal popolo della rete. Dear future mom, tuo figlio potrà essere felice come lo sono io. E tu sarai heureuse aussi. Vero, mamma? Quella che sentite in sottofondo è Dear Future Mom, la campagna realizzata da Saatchi & Saatchi per Core Down in occasione della giornata mondiale sulla sindrome di Down, premiata sul palco del Palais des Festivals con 2 leoni d'oro, 3 d'argento e 1 bronzo. La campagna ha emozionato più di 5 milioni di persone nel mondo e nelle 48 ore successive al lancio è diventata la più condivisa al mondo sui social network. Così ci ha ricordato Federico De Cesare Viola di Core Down. Sono 6 leoni quest'anno ed è il terzo anno di fila che riusciamo, come dire, a raggiungere il risultato più importante. Abbiamo postato nuovamente, perché lo avevamo già fatto a suo tempo, la campagna sulla nostra pagina Facebook. Invitiamo ad andarla a vedere chi non l'avesse ancora fatto, anche se è praticamente impossibile. Ecco, ricordiamo la genesi di questa campagna, un po' la sua storia. Sì, intanto giustamente dicevi tu, insomma, che ha avuto un successo davvero straordinario. Ad oggi abbiamo superato 5 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube di Core Down, oltre a, insomma, numerose e tantissime manifestazioni di stima e di affetto che abbiamo ricevuto da tutto il mondo. La campagna è nata da una lettera che noi di Core Down abbiamo ricevuto, come in realtà succede spesso, un po' di mesi fa, di una mamma, una lettera di una mamma preoccupata per il futuro del figlio, una mamma in attesa di un figlio con sindrome di Down, che si chiedeva che tipo di vita, che tipo di futuro avrebbe potuto avere il figlio. Uno spunto che Saatchi & Saatchi, la vostra agenzia, ha messo poi in pratica molto bene, bisogna dirlo. Assolutamente, noi siamo sempre più orgogliosi di poter proseguire questa collaborazione, che peraltro ci tengo a sottolineare da parte di Saatchi a titolo assolutamente amichevole e gratuito. Sono stati molto bravi, grazie, diciamo, al lavoro di squadra al quale hanno contribuito tanti professionisti. Mi piace ricordare innanzitutto Luca Lucini, che è il regista del film, il regista di Dear Future Mom, che ha fatto un lavoro di straordinaria sensibilità, riuscendo proprio a cogliere, come dire, davvero i sentimenti, i sogni, le espressioni dei nostri ragazzi, degli attori, che hanno fatto un lavoro magnifico. E ovviamente vorrei ringraziare anche Luca Pannese e Luca Lorenzini, che sono i due creativi che hanno lavorato alla campagna, e con loro è il terzo anno di fila che progettiamo insieme una campagna per la giornata mondiale. L'obiettivo è innanzitutto quello di promuovere, di diffondere una cultura della diversità, ma soprattutto di creare ogni anno di più maggiori opportunità di integrazione a scuola e soprattutto nel mondo del lavoro per tutte le persone con sindrome di Down. My name is Sweetie. I'm 10 years old. I live in the Philippines. Every day I have to sit in front of the webcam and talk to men, just like tens of thousands of other kids. The men ask me to take off my clothes. They undress. They play with themselves. Questa invece è la campagna Sweetie di Terre des Hommes per la lotta al turismo sessuale minorile via webcam, campagna vista, pensate, da oltre 1 miliardo di persone nel mondo, uno strumento di comunicazione di eccellenza, come riconosciuto a Cannes, ma anche investigativo. Paolo Ferrara di Terre des Hommes. Sweetie si è aggiudicata ben 12 leoni d'oro, che sono il massimo riconoscimento e il gran premio della giuria come campagna. È sicuramente un successo in termini di comunicazione, ma è soprattutto per noi un successo perché sottolinea l'importanza di un progetto che ha permesso di creare il primo avatar virtuale, quindi un'animazione in 3 dimensioni che ha affrontato la rete cercando di scovare, individuare predatori sessuali interessati a quello che viene chiamato adesso turismo sessuale via webcam. Un successo sicuramente in termini di comunicazione, ma anche in termini di inchiesta e indagine, perché grazie a un lavoro che ha coinvolto 4 operatori e circa 1600 ore di lavoro, sono stati individuati con nome e cognome, indirizzi di posta elettronica, circa 1000 predatori sessuali nel mondo, 22 nella sola Italia, e questi nominativi, i loro dati sono stati forniti poi all'Interpol, che sta già procedendo con le indagini supplementari. Evidentemente in alcuni casi ci sono state anche delle condanne, quindi da un lato il grande entusiasmo perché una campagna che aveva anche una parte di comunicazione importante, più di 1 miliardo di persone hanno visto il video in tutto il mondo, ma soprattutto per quello che questo rappresenta, la sensibilizzazione a livello planetario sulla possibilità di combattere in maniera proattiva la pedopornografia e il turismo sessuale via webcam. Considerate che i dati dell'FBI ci dicono che soltanto ogni giorno online ci sono circa 750.000 predatori sessuali collegati, che significa che alcuni di questi sono pedofili, quindi realmente interessati a minorenni, ma in molti casi invece si tratta di cosiddetti opportunisti della rete, quindi cercano sesso con adulti o immagini di sesso con adulti, ma se si imbattono in immagini di bambini o contatti con bambini vanno avanti, proseguono comunque con la loro ricerca di sessualità. Se soltanto con 1600 ore di lavoro investigativo e 4 persone soltanto coinvolte, e soltanto sulle web chat pubbliche siamo riusciti a individuare 1000 predatori, abbiamo ricevuto 20.000 contatti interessati, è evidente che il fenomeno è probabilmente molto molto più ampio e diffuso. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di filosofia antispreco. Una delle istanze di vita e di consumo più forti in questo momento, se ne sono accorti anche i supermercati. Codice a barre di Cristina Lazzati. Se c'è un tema che sembra aver risvegliato coscienza e portafogli insieme, è quello dell'antispreco, del riutilizzo, del refurbishment. Un movimento figlio della crisi, ma non solo. Nel sentimento che pervade il nostro mondo, si fa largo il desiderio dei cittadini di vivere in modo più trasparente. In UK, Sainsbury ha fatto coppia con Google, proponendo Food Rescue, uno strumento, sito e app, che offre suggerimenti e ricette per riutilizzare cibo appena scaduto prossimo alla scadenza. Basta digitare o pronunciare il nome del prodotto, il suo peso e la data di scadenza pubblicata sul packaging, ed ecco apparire le soluzioni per un suo riutilizzo. Ogni ricetta premia i volenterosi con la cifra risparmiata grazie all'operazione Salvacibo. Il quotidiano inglese Daily Mail ha pubblicato una lista di freschi, dalle uova al pesce al pollo, con consigli per distinguere, al di là della data di scadenza e di acquisto, la loro edibilità. Anche in Italia, Auchan con WWF ha lanciato l'operazione Ricette Antispreco, in collaborazione con la eco-food blogger Lisa Casali. Gli utenti sono invitati ad inviare la loro ricetta a base di riciclo. Ma se non avete il pallino della cucina, basta collegarsi al sito insieme-contro-gli-sprechi.it ed ecco che troveremo una serie di ricette con cui riciclare avanzi, frutta ammaccata o fondi di frigorifero, trasformandoli in sanissime e gustose ricette. Essere e avere. Perché trasportiamo solo Ferrari? Perché le Ferrari sono un mito in tutto il mondo. In America, in Cina, in Australia, in Faubasia. Dove? In Faubasia, dappertutto, pure qui in Arabia. E queste dove le hanno rubate? Ridaglia questa parola, scordatela questa parola. Qui non c'è niente di rubato. Le Ferrari poi non le ha mai rubate nessuno. Le Ferrari sono di tutti, sono patrimonio dell'umanità. Sono come la Cappella Sistina, ecco. La Cappella Sistina di chi è? Del Papa? No, con rispetto parlando non è del Papa, è dell'umanità. Così è Ferrari. Italian Factor. Siamo giunti al traguardo di questo nostro viaggio alla ricerca dei fattori di eccellenza del Made in Italy e soprattutto delle sue potenzialità inespresse. Ad accompagnarci anche in questa ultima tappa, ovviamente, il nostro ospite fisso, Francesco Morace. Ben ritrovato, Francesco. Buon pomeriggio a te, Maria Luisa, e a tutti i radioascoltatori. Oggi però non sei da solo, diamo subito il benvenuto a Barbara Santoro, presidente di Schenker. Buon pomeriggio, Barbara. Grazie, buon pomeriggio. Barbara è la coautrice del libro che ha dato il via a questo viaggio, per questa riflessione finale vorrei partire proprio da te, in qualche modo dall'inizio, dall'intuizione iniziale di questo libro, quindi dal titolo Italian Factor, per chiudere in qualche modo il cerchio di questa riflessione. Qual è l'intuizione, l'ispirazione, la passione che ha fatto scaturire questa definizione? Ma lavorando da molti anni nell'area della formazione linguistica e lavorando con manager, imprenditori che ne hanno necessità per lavorare nel mondo, per internazionalizzare le aziende, fare carriera e vendere comunque qualcosa. E lavorando con queste persone mi sono resa conto che da una parte c'è un problema di forma, quindi di linguaggio, e su questo si può lavorare, ma dall'altra c'è un profondo problema di consapevolezza di valore, di contenuto. Quindi mentre da una parte ciascuno di noi magari è molto, si sente competente nella propria, nel proprio settore, utilizzare la leva dell'italianità anche nel modo di rappresentarsi all'estero è una leva, è una sorta di portaerei di potenziale. Da questa esperienza mi è venuto in mente che la sommatoria di quelle caratteristiche universalmente riconosciute come tipicamente italiana, no? Di cui poi Francesco da molti anni parla, ed è il motivo per cui poi mi sono rivolta a lui per costruire questo libro, queste leve senza la capacità di comunicare nel linguaggio che gli altri capiscono, quindi quel linguaggio tipicamente marketing che è proprio di un'altra cultura e non la nostra, non arriva, quindi è quell'uno che deve far 31 perché la cosa funzioni. Francesco, tema centrale delle nostre chiacchierate di questi mesi, come dicevamo all'inizio, le potenzialità inespresse, quanto da scoprire, valorizzare, moltiplicare, tirando le somme di questo percorso c'è nell'eccellenza italiana? C'è moltissimo e bisogna davvero essere specifici come la cultura anglosassone ci insegna. Noi abbiamo talenti, abbiamo qualità, abbiamo anche vocazioni e passioni, ma difficilmente riusciamo a inquadrarli in una dimensione che poi ci permette di moltiplicarne il valore. Ed è proprio questo, diciamo, l'incontro felice con Barbara, che comunque ha vissuto anche in Canada e quindi riesce a mettere insieme questi due elementi, è stato il capire che probabilmente basta poco per potenziare le nostre qualità e i nostri talenti, proprio utilizzando il famoso factor. Barbara, un problema di linguaggio, dicevamo, l'eccellenza non passa. Forse anche il motivo per cui tante volte i marchi storici italiani vengono acquisiti e vengono moltiplicati, potenziati con una strategia che non tocca il prodotto e tocca invece la sua comunicazione. Assolutamente, ma se pensiamo a Gucci, ad esempio, che addirittura mette sulla borsa il marchio non Gucci, ma Made in Italy by Gucci. E questo è emblematico della capacità di pensare all'effetto moltiplicatore del brand Italy e utilizzarlo come punto leva di successo e di penetrazione nella testa e nei desideri dell'altro. Francesco, non solo prodotto, in questi mesi abbiamo parlato di intelligenza, creatività, gusto, capacità tecniche, artigianalità, di valorizzazione sia appunto dei prodotti ma anche delle persone che li fanno. Quanto è centrale questo aspetto? È molto centrale, le persone, il loro saper fare. Sulla base di quello che diceva Barbara, diciamo l'aspetto positivo però è che l'Italia non ha perso la filiera, non ha perso, o almeno speriamo che non la perda, questa capacità di fare che invece ad esempio i francesi, gli americani, altre realtà che sono bravissimi poi a comunicare hanno perso, ed è il motivo per cui vengono a comprarlo da noi. Ecco, allora persone con il loro saper fare, territori che queste persone rappresentano e poi imprenditori e manager che sappiano valorizzarne alla fine il valore. È un cambio di prospettiva, Barbara, tu che ti occupi di formazione, quanto bisogna ripensare anche il modo di fare impresa, il modo di gestire la forza lavoro all'interno dell'impresa, la creatività, l'intelligenza di chi lavora con tutti noi. Assolutamente, un cambio paradigmatico totale. Bisogna infatti ripensare anche i modelli di formazione manageriale. Diciamo che noi abbiamo nella storia adottato un modello tipicamente americano, harvardiano, di management training, pensato per le grandi aziende, per le grandi corporations, invece di declinarlo sulla nostra realtà in maniera tale da produrre manager capaci di assistere, accompagnare, non sopraffacendo, non so come si dice in italiano, questa cosa, l'imprenditore, ma valorizzando le qualità e le caratteristiche del facendosi come da mediatore tra l'imprenditore e il mercato. Moltiplicare il valore di un paese, dunque il sottotitolo del vostro libro. C'è molto lavoro da fare, vediamo ottimisticamente però, Barbara, Francesco. Ma io direi proprio di sì, tra l'altro credo che si stiano creando nel nostro paese delle condizioni anche istituzionali, politiche, anche di immaginario nuovo che davvero possa essere quell'elemento mancante in questa visione così ampia. Quindi io su questo devo dire sono molto ottimista. Io sono moltissimo ottimista perché mentre per gli altri è impossibile imparare quello che noi sappiamo fare. Per noi invece dovrebbe essere molto facile imparare una piccola cosa che manca, cioè includere nel percorso del fare impresa come must, come necessario e indispensabile, la preparazione per una comunicazione efficace e la capacità quindi di creare relazioni, perché tutti quei marchi che ce l'hanno fatta nella storia sono stati capaci di affascinare, di parlare con gli interlocutori, e alla fine la differenza tra uno che arriva e l'altro che no non è necessariamente la qualità del prodotto, ma proprio la capacità di essere carismatici, affascinanti, trasmettere il proprio valore e dall'altra parte sapere che dall'altra parte noi godiamo di un grande credito, ci riconoscono qualcosa di straordinario che loro non hanno e non potranno mai avere. Barbara Santoro, grazie per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. Francesco, siamo alla fine del nostro viaggio, questa è l'ultima puntata della stagione, nelle prossime settimane ci sarà un'antologia con il meglio della produzione di questi mesi. Ti chiedo una riflessione finale su un percorso, lo abbiamo detto più volte, che nasce come ispirazione trasversale per le aziende ma anche per i consumatori e poi per le istituzioni, le associazioni di categoria, gli esperti oppure i semplici appassionati di Made in Italy. Una riflessione e naturalmente anche un doveroso ringraziamento a te Maria Luisa, Radio 24. È stata una bellissima cavalcata perché ci ha permesso e anche mi ha permesso di ripercorrere in modo sintetico questo percorso. Parlare di italianità, di Made in Italy e poi di Italian Factor è molto complesso. Io trovo che troppo spesso noi ci limitiamo agli stereotipi e quindi grandi produttori di moda. Abbiamo per esempio sottolineato che dietro a questa capacità c'è anche uno straordinario ingegno meccanico. Abbiamo spiegato che bisognerebbe creare delle triangolazioni tra le aziende, le università e i media, perché è solo così che l'Italia può andare a moltiplicare questo valore nel mondo. Ed infine abbiamo, io credo, spiegato bene i motivi per cui non solo ce la possiamo fare, ma possiamo tornare ad essere i migliori del mondo, invidiati un po' da tutti. Grazie dunque a Francesco Morace, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Da sabato prossimo, come anticipato, il meglio di della stagione. Intanto stiamo scaldando i motori, per così dire, per settembre, quindi restate con noi. Faremo comunque delle incursioni, degli aggiornamenti anche nelle puntate di luglio e agosto. Aspettiamo le vostre idee e i vostri suggerimenti. A sabato prossimo, un saluto da Maria Luisa Pezzali.